Sono sognato su Gisella, m'han fatto trilliriare, si non querer detamare, non ti sere, non ti sere, non ti... Ai, non ti sere, non ti sere, non ti sere, fatta bella rondinella, rondinella, rondinella. Noi rondinella. Si non sei tu a chi è tan madre,